Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Nella vita può succedere di tutto, anche di andare dal barbiere con l'idea di farsi giusto la barba e scoprire che invece da quel momento cambia tutto. Fino a un attimo prima la migliore opportunità che ti si presenta è quella di farti anche un bel taglio di capelli, come quelli che si usavano una volta, corto, con la sfumatura sulla nuca, e pazienza se i capelli sono sempre più radi. Invece, questa volta, la vita ti offre ben altre possibilità. E quindi, proprio questo giorno, mentre stai emergendo dal panno tiepido e profumato che ti avvolge il viso, tu ancora non lo sai che una volta pagato il conto, salutato il barbiere, data la mancia al ragazzo che si occupa di spazzare da terra i tuoi radi ricci, ecco, tu ancora non lo sai che appena varcherai la porta ti succederà qualcosa, il cosiddetto fortuito incontro. O se preferisci chiamalo una fortunata congiunzione astrale o una piega inaspettata nell'ordinata disposizione spazio-temporale della tua esistenza, o forse meglio il destino che sceglie ciecamente le sue pedine. Insomma, chiamala come vuoi, ma questa volta la vita ti sta servendo il colpo buono, il jolly, una palla da maestro. Uscendo da quel barbiere, il protagonista della nostra storia entra direttamente nella fama. Quest'uomo, grazie alla sua lunga e gloriosa carriera, ha vinto così tanti premi che occuparsene diventa un lavoro. We have a special kind of rag. Abbiamo uno straccio speciale per pulirli, di quelli che non graffiano. Comunque non sono poi così tanti. Abbiamo uno scaffale per gli Oscar e una vetrinetta per i Grammy. Nello scaffale, quattro impettiti Oscar osservano con curiosità i 20 Grammy Awards nella vetrinetta di fronte. Tutti insieme fanno un curioso misto di premi cinematografici e musicali che segnano la carriera di uno dei più prolifici compositori di colonne sonore della storia del cinema, Henry Mancini. Henry Mancini. Henry Mancini non è un semplice musicista. In 35 anni ha segnato la scena cinematografica con musiche che spesso vengono in mente prima della singola scena, con canzoni che hanno travalicato il momento filmico per diventare hit delle classifiche musicali. Prima di Henry Mancini, la colonna sonora non era altro che una specie di tappeto musicale che riempiva i vuoti delle scene, senza quasi alcuna caratterizzazione, a meno che non si trattasse di musical, dove le note sono parte integrante della storia. Eppure, già dalla nascita della prima colonna sonora nel 1908, a opera del compositore francese Camille de Saint-Saëns, che scrisse la prima musica per le immagini del film L'assassinio del duca di Guisa, moltissimi nomi importanti hanno lavorato alla parte sonora di grandi film. La musica per Henry non è una scelta casuale, ma una passione coltivata fin da piccolo, il sogno da realizzare a ogni costo, come egli stesso recita leggendo il suo profilo sull'annuario di scuola di fine liceo. Henry Mancini, un vero amante della musica, colleziona dischi, suona in una band e compone persino molti brani. Il suo desiderio è di continuare i suoi studi musicali e un giorno avere un'orchestra tutta sua. Enrico Nicola Mancini nasce nel 1924 nel sobborgo italiano di Cleveland, in Ohio, ma cresce ad Aliquippa, in Pennsylvania. Il nome del paese è il classico frutto di antichi insediamenti indiani, ma la sua musicalità potrebbe essere piaciuta a Henry, che già da piccolissimo non pare interessato a molto altro oltre la musica. Del resto, la sua costituzione esile non lo indirizza verso la classica formazione americana fatta tutta di sport. L'orgoglio di casa Mancini è anche la principale fonte di preoccupazione di mamma Anna e di papà Quinto, oriundi di Scanno, in Abruzzo. Il bambino è continuamente malato e da adolescente soffre persino di febbre reumatica. Insomma, niente a che vedere con l'immagine del perfetto giovane atleta americano che l'America ama. With our diamond slippers on, do our gay ballet nights, bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Per Henry c'è bisogno di trovarsi un altro hobby che non sia lo sport. Grazie all'aiuto del padre, che suona il flauto in una banda locale, a 8 anni Henry si arrangia già molto bene con l'ottavino. E quando a 12 anni inizia a suonare il pianoforte, le sue conoscenze musicali sono tali da permettergli un rapido apprendimento, anche se non diventerà mai un virtuoso dello strumento, come lui stesso afferma. Ho capito molto presto che non sarei diventato un pianista di talento. Ascoltavo molto i dischi di Art Atom ai tempi. Li amavo, ne conoscevo ogni singola nota, ma sapevo altrettanto bene che non sarei diventato un grande strumentista. Ma vediamo se nel DNA dei Mancini c'è qualcosa che possa far pensare a un segno del destino ancor prima della nascita. Nella storia musicale d'Italia ci sono dei Mancini. Il primo di cui si conserva una traccia è Curzio, un compositore di musica sacra a Roma nel XVI secolo. Poi, nel XVII secolo, troviamo un Francesco Mancini, che compone musica per organo a Napoli. E infine, nel XVIII, un Giambattista Mancini che opera a Bologna. Fra questi, nessuno può essere certo che ci sia un avo del nostro primo protagonista. Ma certo è che il cognome è una garanzia. E nel XX secolo il nome Henry si aggiunge alla lista dei Mancini compositori. E la sua formazione inizia da giovanissimo. Iniziai a comprare i dischi e fu un buon modo per ascoltare e anche analizzare la musica. Ero un fan delle big band e come tutti i ragazzini a cui piace la musica e conoscono i nomi dei Rolling Stone o degli Aerosmith, anch'io conoscevo i nomi di tutti. Solo che le band avevano un sacco di musicisti e io sapevo il nome persino del terzo sassofono o della quarta tromba, cose del genere. È che quando sei giovane assorbi le cose come una spugna. Henry capisce ben presto che quello che veramente gli interessa è l'arrangiamento, la possibilità di orchestrare una partitura, studiare le sonorità, sottolineare le frasi musicali. Non è facile trovare qualcuno che gli insegni composizione, ma quando incontra Max Atkins, un compositore e arrangiatore che nella vicina Pittsburgh dirige l'orchestra della città, i suoi desideri sembrano finalmente esaudirsi. Nel 1938 non era facile trovare degli insegnanti in giro, innanzitutto perché la tecnica, per via del suono delle big band, stava cambiando e poi perché tutti quelli che ci sapevano fare lo facevano in giro, nelle orchestre. Incontrare Max è stato un colpo di fortuna. Dopo il diploma, gli studi musicali di Mancini continuano alla Juilliard School of Music di New York, uno dei conservatori più famosi del mondo. Tra i suoi studenti più noti Miles Davis, Chick Corea, Philip Glass, la cantante Nina Simone, il grande violinista Itzhak Perlman e il violoncellista Yo-Yo Ma. L'atmosfera della Juilliard è entusiasmante. Nei lunghi corridoi della scuola, i ragazzi si scambiano informazioni, musiche, idee, mentre dalle aule si sentono tutti i suoni del mondo. Ma a questi, presto, si mescolano suoni ben più cupi. La Seconda Guerra Mondiale è nel pieno della sua tragedia. Così quando la patria ha le sue richieste da fare, Henry Mancini, da bravo italo-americano di seconda generazione, non può che rispondere con entusiasmo e senso di gratitudine al paese che tanto gli sta offrendo e tanto ha fatto per i suoi genitori. Arruolato dapprima in aeronautica e poi in fanteria, il giovane musicista marcia per mesi su campi di battaglia e in quel lungo periodo può solo pensare alle sue musiche, tutt'al più rivedere nella sua mente qualche passaggio sulla tastiera. La musica diventa solo un lungo e infinito fraseggio che si svolge nella sua testa nelle lunghe ore di servizio. Ma qualcosa di buono può nascere anche dalla guerra. Durante quegli anni, Henry conosce alcuni dei componenti dell'orchestra militare Army Air Corps di Glenn Miller. Fin da ragazzo appassionato del grande trombonista che rese celebri brani come In the Mood e Chattanooga Choo Choo, Henry Mancini non può credere alla sua fortuna. E quando alla fine della guerra torna in America, i contatti con i commilitoni di un tempo gli garantiscono proprio un posto nell'orchestra di Miller. Anche se Glenn Miller non è più a capo, scomparso misteriosamente in aereo nel canale della Manica alla fine del 44, la sua band continua a mietere successi in ogni stato del paese. Per Henry, l'ingaggio con la Glenn Miller Band è il primo lavoro vero le prime esperienze in giro per il paese, le lunghe tournée, la convivenza con gli altri musicisti e gli incontri con le cantanti, come Virginia O'Connor, una deliziosa ragazza dal sorriso sempre pronto e che sa il fatto suo. Convive con i musicisti da quando è un adolescente e sa come tenerli a bada. Le sue doti canore le hanno infatti procurato, giovanissima, un posto nel famoso gruppo dei Meltons, del grandissimo Mel Tormé, uno dei più dotati e sofisticati interpreti di jazz di quegli anni. Mel Tormé è un vero enfant prodige della musica americana del tempo. A 4 anni canta già professionalmente in un'orchestra. A 13 scrive la sua prima canzone. Entrare nel suo gruppo, che fonda quando ha appena 19 anni, è un vero riconoscimento per Virginia, oltre alla possibilità di ricevere un insegnamento prezioso da un cantante che Will Friedwald, critico musicale di riviste come il Village Voice o di giornali come il New York Times, definisce in toni entusiastici. Tormé ha la fortuna di lavorare con la voce più bella che sia stata concessa a un uomo, che si combina a un orecchio musicale perfetto. Il background di Virginia O'Connor, detta Ginny, da poco entrata nella Glenn Miller Band, le consente di guardare dall'alto in basso tutti i musicisti dell'orchestra. Ma Harry Mancini è un ragazzo così umile, gentile e dotato che è difficile fare la snob con lui. E poi è evidente che Henry l'adora e questo fa sempre piacere. Tanto che alla fine si fidanza con lui, un ragazzone di 22 anni appena, ancora inconsapevole che trascorrerà al suo fianco più di 45 anni e avrà con lei 3 figli. Per Henry, cresciuto a musica e tradizionali valori italiani, mettere su famiglia comporta una serie di doveri, primo fra tutti quello di sistemarsi, trovare una casa e un lavoro sicuro. La vita dei nomadi poco si addice alla sua idea di famigliola felice, in un certo senso molto simile a quella che propinano continuamente le prime televisioni che illuminano le case americane dei primi anni 50, nella pubblicità e negli show. La coppia si trasferisce in California, lo stato di provenienza di Ginny, e in poco tempo mette le radici. Manca solo il lavoro. Ma Ginny sa che suo marito ha talento e amore per il lavoro, sa che c'è solo da aspettare l'occasione buona, che non tarda ad arrivare. Henry, infatti, si trova un impiego e nel 1952 entra nel reparto musica degli studi Universal Pictures. Gli studi dell'Universal Pictures sono un luogo spettacolare. A mezz'ora da Los Angeles, oggi sono stati trasformati in un immenso parco a tema, visitato da milioni di persone all'anno. Dove un tempo venivano girati alcuni fra i più importanti film americani e dove centinaia di persone ogni giorno si recavano per lavorare, oggi un trenino porta i visitatori a provare per qualche minuto l'eccitazione di trovarsi all'interno dei loro film preferiti. Ma nei primi anni 50, gli studios non erano altro che il luogo di lavoro di veri e propri impiegati dello spettacolo, come Harry Mancini, che ogni giorno alla guida della sua auto va al lavoro pensando, come faceva quando era in guerra, tutto il tempo alla musica. Da casa andavo ogni giorno agli studi della Universal, in fondo alla San Fernando Valley. Circa 45 minuti di macchina, e durante il tragitto componevo. D'altra parte siamo musicisti, non abbiamo bisogno di molto altro. Henry inizia subito a comporre musiche per film e serie televisive. I film in realtà sono spesso produzioni conosciute, ma che sfiorano la serie B, come quelli del duo comico di Abbott e Costello, Francis il Mulo Parlante. Oppure collabora con altri compositori in piccole produzioni di science fiction, con titoli improbabili come Il mostro della Laguna Nera. O del film fantascientifico Destinazione Terra. Sono comunque anni di formazione, in cui Mancini impara il suo lavoro davvero bene. È stata la migliore formazione possibile. Ancora oggi tutte le basi del mio lavoro provengono da quei giorni. Ho giusto aggiunto qualcosa di elettronico, cose venute dopo. Ma tutta la mia impostazione musicale di base viene da quel periodo. Nel 1954 un salto di qualità. Considerando la sua passata esperienza nella band di Glenn Miller, viene chiamato a comporre le musiche per il film biografico sul grande artista. La colonna sonora di Glenn Miller Story riceve persino una nomination all'Oscar, ma questo non impedisce al contratto di Henry con la Universal di scadere nel 1958. È in situazioni come queste, quando ti è appena scaduto un contratto e hai una moglie e 3 figli da mantenere, il mutuo da pagare e una discreta dose di talento, che andare dal barbiere diventa una scelta non solo opportuna, ma addirittura capitale. Un evento che può cambiare il tuo destino. Avevo scritto un episodio pilota per la serie Peter Gunn. Avevo appena finito e stavo andando dal barbiere quando incontrai Hank, che mi salutò dicendo «Ciao capo!» e io al che dico «Aspetta, hai voglia di fare un film?» Parlavamo a una certa distanza e lui mi fa «Certo!» Quindi gli mandai la sceneggiatura. Lui mi telefonò e mi disse «Pensavo fosse un western» e io «No, ma vuoi farlo lo stesso?» Allora lui mi fa «Sì, certo, lo faccio. Posso fare un jive?» E io «Fai quello che vuoi», che è quello che dico sempre quando non so cosa fare. Quello che avete appena sentito sembra un ottimo dialogo per una commedia, non è vero? Inaspettato, brillante, veloce. Esattamente nello stile di uno dei più grandi registi e scrittori di commedie eleganti e sofisticate che Hollywood sforna fra gli anni 50 e 60. Eppure questo dialogo è il resoconto di un fatto realmente accaduto ed è diventato il punto di non ritorno di una delle collaborazioni più fruttuose del cinema, quella fra Henry Mancini, Hank per gli amici, e un grande regista, Blake Edwards. Blake Edwards. Trailer for sailor rent, rooms to let 50 cent, no phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bedroom. I'm a man of means by no means. Destini incrociati. A destini incrociati, un regista sta fidandosi unicamente del proprio fiuto nello scegliere un semi sconosciuto compositore per i propri progetti cinematografici. Si tratta di Blake Edwards e del compositore Henry Mancini. Questa non è la prima collaborazione esclusiva fra un regista e un compositore della colonna sonora. In Italia abbiamo assistito a quella tra Federico Fellini e Nino Rota, che hanno prodotto grandi capolavori, o alla storica collaborazione tra Alfred Hitchcock e Bernard Herrmann, oppure in tempi più recenti Emir Kusturica e Goran Bregovic. Ma mai, come con la coppiata Blake Edwards e Henry Mancini, la fama di un film è stata forte tanto quanto un brano della sua colonna sonora. Stiamo parlando di 2 numeri 1 al botteghino, nelle scelte degli spettatori e nei ricordi di ognuno di noi. Tutto inizia con le musiche per uno show televisivo destinato a diventare uno standard di jazz ripreso persino dai Blues Brothers nell'omonimo film con John Belushi e Dan Aykroyd. Blake Edwards sta infatti lavorando per la televisione attorno a piccoli progetti che, grazie alla sua bravura, riesce a trasformare in grandi successi, come quello per Peter Gunn, una serie che racconta le avventure di un detective elegante e amante del jazz. E in seguito Mr. Lucky, la storia di un giocatore d'azzardo di professione e vero gentiluomo. Due personaggi che hanno in comune il piglio sofisticato e cool che in fondo Blake sapeva così ben descrivere perché gli assomigliava. Veloce, spiritoso, intelligente, la faccia del bel ragazzo che la s'allunga, la famosa faccia da schiaffi, Blake entra nel mondo del cinema con lo stesso passo felpato e con la stessa impertinenza dei suoi eroi detective. Blake Edwards nasce a Tulsa, in Oklahoma, nel 1922. Già dal liceo inizia a scrivere sceneggiature e dopo poco il suo aspetto da simpatica canaglia gli apre le porte del cinema in qualità di attore, con qualche piccola parte in produzioni minori, fino al ruolo principale in un film dell'horror intitolato Strangler of the Swamp, lo strangolatore della palude. Un titolo forse non lusinghiero per un bel ragazzo, ma certamente una parte eccitante che lo vede uscire fuori dalle nebbie e spaventare le signorine. Ma è la scrittura il primo amore di Blake. Per questo continua a macinare copioni per film e programmi radiofonici e televisivi. Quando Peter Gunn raggiunge un grande successo, Blake si rende perfettamente conto che uno degli ingredienti per raggiungerlo sta nella musica che un giorno, per caso, all'entrata dal barbiere, ha deciso di affidare a un ragazzotto con una moglie, tre figli e un contratto in scadenza con la Universal. Proprio lui, Henry Mancini. Così, visto il risultato della collaborazione, gli continua a proporre nuovi progetti e lui, entusiasta per la prospettiva di cambio di vita, li accetta senza farsi troppe domande. È partito tutto da Peter Gunn. Prima di quel momento ero un impiegato dalle 9 alle 5. Poi, improvvisamente, sono diventato un artista a tutto tondo. Poco dopo l'inizio della sua collaborazione con Mancini, Blake Edwards decide di fare il grande salto nella cinematografia e dopo un iniziale esperimento si ritrova a dirigere il suo primo vero film con due attori del calibro di Cary Grant e Tony Curtis, il delizioso Operazione Sottoveste. Questa guerra deve essere alquanto scomoda per lei, signor Holden? Cerco di passarla meglio che sia possibile. Ah, sì, certo, questo lo vedo. Sa, mi rendo conto che lei non è pratico della vita di bordo. Sigarette? No, grazie. Ma qui, vede, mangiamo insieme, lavoriamo insieme e temo proprio che lei dovrà adattarsi alla nostra vita. Quindi le do 3 minuti esatti per alzarsi da quel letto, vestirsi e presentarsi al signor Watson. Signor, sì. Lei imparerà tutto su un sommergibile, anche se dovrò iniettarglielo per via endovenosa. Dopo le vicende del sottomarino rosa, protagonista di Operazione Sottoveste, Blake deve aspettare ancora 2 anni per fare veramente centro. A colazione da Tiffany lo aspetta il successo. Oh, Jane, maker, you heartbreaker, wherever you are going, I'm going your way. Quando lo scrittore Truman Capote vende i diritti del suo libro Colazione da Tiffany, ha molto bene in mente chi potrebbe interpretare il ruolo della protagonista Holly Golightly, la sua carissima amica Marilyn Monroe. Così, quando la produzione decide di scegliere una giovane Audrey Hepburn, dal fisico e l'indole completamente diversa da Marilyn, Capote si sente profondamente offeso. Ma mai come in questo caso il dispiacere dello scrittore è piaciuto così tanto alle centinaia di milioni di spettatori che negli anni hanno visto Colazione da Tiffany, adorandolo come uno dei film più brillanti mai girati e identificandosi nella elegante silhouette della Hepburn. A volerla è stato proprio Blake Edwards, il regista. Durante le riprese, nonostante lui sia molto sicuro della sua scelta, il rapporto con l'attrice non parte proprio col piede giusto. La Hepburn, mal consigliata, tende nei primi giorni di lavoro a seguire più i consigli di altri che quello del suo regista, provocando una reazione sicura e immediata. La presi accanto a me e le dissi: «Ehi, c'è solo un regista qui. Forse non è il migliore, ma è tutto quello che hai. Dobbiamo andare d'accordo, altrimenti dovrai trovare un altro regista». E da quel momento tutto cambiò. Lei si affidò a me completamente. Si vedeva. Ed era una donna spettacolare. L'intero film trasuda di una comicità leggera che è il vero stile di Blake Edwards, quello che da allora in poi diventerà il suo marchio. Un esempio assolutamente perfetto del suo stile è la scena del party a casa di Holly. This time I'm warning you! I am definitely this time going to call in the police! L'intera sequenza, così come l'intera pellicola, è magistralmente sottolineata da una musica inconfondibile. E di chi può essere se non del compagno fidato Henry Mancini? Probabilmente è proprio da questo momento che il suo sound è diventato sinonimo di musica da cocktail sofisticato, una sorta di precursore di quella che sarebbe diventata la moderna musica lounge. Un misto di sonorità cool, jazz, bossa nova, con un'orchestrazione molto ricca che riflette la grande esperienza nelle big band del giovane Henry, con una predilezione per quegli strumenti che ha suonato nel corso dei suoi anni formativi, come il flauto. Ma un altro tratto distintivo della sonorità di Mancini è una sottile vena di romanticismo malinconico, una caratteristica che in un certo senso fa parte del bagaglio emotivo dell'artista, dell'uomo timido e innamorato della stessa ragazza per 45 anni. Credo che chiunque scriva musica abbia dentro di sé una sorta di suono interno, che sia un'armonia, una melodia o a livello di strumenti, che contraddistingue il suo stile. L'apporto di Henry Mancini nel film di Blake Edwards diventa essenziale. Anche se molto diversi fra loro, Edwards è solare tanto quanto è melanconico e lunare Mancini, i due sentono di avere molto in comune, a partire dal gusto musicale. E alla loro terza collaborazione la comunanza di intenti è ormai diventata totale. I risultati si vedono. In Colazione da Tiffany, sollecitato dal regista, Mancini crea apposta per Audrey Hepburn, attrice intonata ma dalla scarsa gamma vocale, una canzone dolce, destinata a diventare non solo una hit del momento, ma uno standard musicale ormai conosciuto ovunque, e cui l'attrice viene identificata nel mondo. Breaker, wherever you're going, I'm going your way. Quando vedemmo il film per la prima volta in anteprima con la produzione, un dirigente disse: beh, comunque vi dico una cosa, liberiamoci di quella canzone. Fortunatamente Audrey si alzò e disse: sul mio cadavere. Audrey Hepburn, per l'occasione, ha rivelato un fiuto molto più acuto di quello del dirigente della Paramount. Per la colonna sonora e la canzone Moon River, Henry Mancini riceve 2 Oscar, un trionfo assoluto. La collezione di premi del grande compositore può quindi avere inizio. Colazione da Tiffany conosce un successo incredibile che ancora non si è spento dopo 50 anni, diventando il capostipite delle commedie sofisticate. Il periodo d'oro delle commedie di Blake Edwards continua con altri capolavori come I giorni del vino e delle rose con Jack Lemmon e Lee Remick nel ruolo di 2 alcolizzati, e la cui omonima canzone, scritta dall'inseparabile Henry Mancini, è entrata a ragione nei più conosciuti brani della musica jazz. E anche per questo brano Mancini riceverà un Oscar. Arrivò al momento giusto. Avevo già fatto Peter Gunn, Mr. Lucky, Colazione da Tiffany e un altro paio di cose. Poi arrivò questo film ed era il momento migliore, perché era un film drammatico e perché ha permesso a me e a Johnny Mercer di scrivere una canzone che è diventata un classico standard. Destini incrociati. A Destini incrociati sono i primi anni 60. Dopo aver ottenuto un successo incredibile con Colazione da Tiffany, film capostipite della commedia sofisticata, e dopo aver descritto il dramma dell'alcol in The Days of Wine and Roses, la natura ironica e dissacratoria di Blake Edwards trova un nuovo soggetto su cui mettere la sua attenzione. E anche stavolta, come per ogni appuntamento decisivo nella sua carriera da regista, non si scorda di coinvolgere il ragazzo incontrato fuori dal barbiere un giorno, colui che ha la capacità di rendere ogni sua pellicola indimenticabile anche per la colonna sonora. Henry Mancini. Avrete riconosciuto il motivetto de La Pantera Rosa, il nuovo progetto su cui investire e altro capolavoro nato dalla collaborazione tra Edwards e Mancini. Originariamente il vero protagonista del film avrebbe dovuto essere David Niven nei panni del ladro gentiluomo Sir Charles Lytton. Ma una volta sul set, le doti comiche dell'interprete e dell'ispettore Clouseau, l'attore inglese Peter Sellers, si rivelano talmente superiori che i pesi dei due protagonisti vengono cambiati in corsa. A questi si aggiungono i cartoni animati creati apposta per il film, con la celebre silhouette del dinoccolato felino per il quale Mancini crea la musica. Per prima cosa venne la costruzione del personaggio, che è stato disegnato a Los Angeles. Io ero a Londra e parlavo continuamente con gli Stati Uniti per decidere i titoli in animazione. E quando finalmente arrivò il design della Pantera, Harry iniziò a lavorare. Fu molto divertente. Sul set diventai amico di Peter Sellers, anche amico di David Niven. Insomma, fu un film perfetto. Quelle occasioni che ti capitano una volta nella vita. Da quel lontano 1963, Blake Edwards scrive e dirige ben 6 film sulla Pantera Rosa, con Sellers protagonista, instaurando anche con lui un rapporto di grande amicizia. Dopo i grandi successi dei primi anni 60, però, la fortuna pare voltargli le spalle. Contrasti con le grandi major hollywoodiane appesantiscono l'atmosfera dei suoi set e la struttura dei suoi film, con imposizioni autoriali che spesso rendono la pellicola senza anima. Blake sembra aver perso il tocco del re della commedia sofisticata. Edwards cade in depressione e frequenta assiduamente lo studio del suo psicanalista. Un giorno, al termine della seduta, sulla sua stessa strada, incontra fortuitamente quella che allora è l'attrice più pagata di Hollywood. Le dissi: sta andando per caso dove io credo stia andando? E lei: dove crede che stia andando? E io: ho il sospetto che stia andando dal suo analista. E lei: ha ragione. E io ho il sospetto che lei stia uscendo fuori dal suo. E questo fu il nostro primo incontro. L'attrice è l'inglese Julie Andrews, cantante straordinaria, capace di un'estensione vocale di 4 ottave, che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con Mary Poppins e Tutti insieme appassionatamente. Grazie al successo delle sue interpretazioni, l'attrice è a Hollywood e tutti i produttori se la contendono. Ma il suo matrimonio con lo scenografo inglese Tony Walton vacilla e la Andrews ricorre allo psicanalista per farsi aiutare a ritrovare dentro di lei le cose che veramente preferisce. Cream colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. L'incontro tra Julie Andrews e il regista Blake Edwards si rivela un altro incontro col destino. Da quel momento non si lasceranno più, dando vita a uno dei matrimoni più longevi del mondo dello spettacolo, nonostante i 13 anni di differenza, 2 precedenti matrimoni e 3 figli di primo letto. Insieme adotteranno 2 bambine vietnamite, Amy e Joanna, e si sosterranno nei momenti bui e in quelli di successo grazie a un amore e a una complicità unici, come racconta l'attrice in una intervista. Ha un incredibile senso of humor, ha una specie di piccolo bagliore che gli illumina gli occhi davvero malandrino, e quando gli si accende capisco subito che ne sta pensando una nuova. È anche molto intelligente, una vera mente, è così un bravo scrittore, è un uomo gentile, è un fantastico regista e in più è incredibilmente attraente. Cosa potevo chiedere di più? Nel periodo buio, le incomprensioni con i produttori per Blake durano qualche anno, nei quali però viene sempre sostenuto non solo dalla moglie Julie, ma anche dall'amico Hank Mancini. Il compositore infatti non dimentica tutto quello che ha costruito insieme al regista. Mancini, dal canto suo, continua a conoscere un periodo di grande stabilità professionale e di successi, ma trova sempre il tempo per telefonare o andare a trovare Edwards, che nel frattempo si è trasferito per un periodo di esilio volontario da Hollywood al suo chalet a Gstaad, in Svizzera. E Blake riconosce a Mancini la capacità di comunicare amicizia e calore a chiunque gli stia intorno, persino ai bambini piccoli, come alle 2 figlie piccole appena adottate, con cui Henry gioca con infinita pazienza. Un bambino non poteva entrare in una stanza dove ci fosse anche lui, che subito, come fosse stata una calamita, andava da Hank, che iniziava a fare rumori e fischiare. Era davvero come il pifferaio magico. Da quell'incontro fuori dal barbiere, tra un novello regista e un compositore senza più un contratto di lavoro, ne è passato di tempo. Ci sono successi, film, premi, c'è soprattutto una grande amicizia e riconoscenza. Da una parte Edwards con i suoi momenti bui e dall'altra la carriera di Mancini, che prosegue con grandissimo slancio. Ma anche a lui non manca qualche piccola delusione, come quando viene chiamato dal grande Alfred Hitchcock in persona per la colonna sonora del film Frenzy. Ma la collaborazione non funziona. Feci le musiche per il film Frenzy e pensai che sarebbero piaciute a Hitchcock. Anche a lui se lo aspettava. E invece quando vennero montate con le immagini, lui disse che non gli sembravano giuste. Io ne fui distrutto. Distrutto. A parte questa debacle, la produzione di Mancini è veramente strabiliante. Non solo crea la perfetta colonna sonora per ogni progetto cinematografico a cui partecipa, ma incide anche 90 album e dirige molte fra le più importanti orchestre straniere, dalla London Philharmonic alla Israel Philharmonic, oltre alle maggiori americane. Ma forse l'abilità principale di Mancini sta nella capacità di individuare la canzone perfetta, la hit che di sicuro si trasforma in un classico, un sicuro successo. Tanto da riuscire a raggiungere la vetta della classifica musicale, persino riarrangiando un brano non suo, ma della colonna sonora originale del film di Franco Zeffirelli, Romeo e Giulietta. Il singolo arriva al numero uno della classifica americana nel 1968, restandoci per ben 8 settimane. Beh, era il 1970 e il rock era all'apice. Era il massimo all'epoca. Io ero andato a vedere il film Romeo e Giulietta e rimasi impressionato dalla ricorrente melodia di Nino Rota e uscendo dal cinema mi dissi: ma come mai nessuno ne ha fatto un disco? Ora tutti fanno dischi dalle colonne sonore, ma ai tempi no. A quei tempi io stavo preparando il disco A Warm Shade of Ivory. Allora acquistai i diritti e ne feci l'arrangiamento. Era un brano molto semplice. Ma il suo desiderio rimane quello di poter tornare a lavorare con l'amico Blake. E finalmente viene esaudito con Victor Victoria, il famosissimo film interpretato dalla moglie di Edwards, Julie Andrews. Una donna che finge di essere un uomo, che finge di essere una donna. Ridicolo. Eh sì, è inconcepibile. È l'ultima collaborazione. Le loro strade professionali si dividono ancora, anche se l'amicizia continua come sempre. E Blake c'è, anche quando Henry si ammala di cancro incurabile al pancreas e gli resta poco da vivere. Eravamo solo io e Hank in camera sua. Ero seduto vicino a lui e gli tenevo la mano, scherzavamo, ma si vedeva che non ce la faceva. Disse: questa cosa mi stronca davvero, sono così stanco. Allora io gli dissi: perché non fai un riposino, chiudi gli occhi. Posso? E io risposi: certo. Chiuse gli occhi, al che io gli dissi: aspetta un attimo, prima spostati un po', sono stanco anch'io. E mi stesi accanto a lui, tenendogli la mano. Soluzioni magazzino? Chiedi di più. Chiedi a Modul Block. Vi ha presentato Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini Incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.